A seguito della grande richiesta da parte del pubblico, proseguiamo con la distribuzione di introvabili libri infami anche nella puntata odierna di Melog. Ogni copia avrà la dedica personalizzata e autografa di Gianluca Nicoletti. Gli ascoltatori potranno sin da questo momento telefonare all'800240024 per dare in diretta la propria testimonianza legata ad un regalo natalizio infame, riciclato o insulso. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bye, ça fait déjà un femme bye. Questa me la faccio in piedi, come fa Giannino tutte le mattine. Sì, perché oggi non potrei condurre la trasmissione seduto come faccio da 20 anni, perché ho la scrivania ricoperta di libri. Una rapida premessa riguardo a quanto avete sentito come presigla. Oggi avrei avuto pronto un argomento fantastico per chiudere la stagione prima di Natale, ma sono stato costretto, istigato dalla fortissima pressione del pubblico, di continuare con la distribuzione dei libri infami. Ma a un certo punto di vista mi fa piacere, svuoto gli armadi, non vedo l'ora di poter rivedere finalmente il fondo di quegli armadietti pieni di libri. Voi direte, ah, che schiaffa la miseria, con tanta fame di cultura, tanti bambini poveri che vorrebbero un libro sotto l'alberello, tu disprezzi il frutto dell'ingegno di tante persone, pensa al sudore, la fatica, l'inchiostro usato, pensa i correttori di bozze, gli impaginatori, gli stampatori, la gioia di avere fra le mani la prima copia di quel frutto delle sue fatiche e vedere quel suo nome sul frontespizio. E tu li regali così, con disprezzo, con leggerezza, come se fossero oggetti su cui può appoggiarsi il tuo dileggio. Beh, io vedo che fatto la felicità ieri di una decina di persone, tanto che continuo a avere telefonate di persone. Le mie colleghe del centralino di Radio 24 di via Monterosa ieri mi hanno detto continuano a telefonare che volevano i libri infami. Evidentemente in questo Natale martoriato, in questo Natale di crisi, in questo Natale di ristrettezze, di paure, c'è un nascente desiderio per avere un libro infame, e io sono qui oggi per soddisfare le vostre richieste e per venire incontro ai vostri desideri. Naturalmente in cambio dovrete darmi qualcosa, è difficile farlo in piedi però, è molto faticoso. In cambio dovrete darmi qualcosa, dovrete continuare come ieri a darmi uno spaccato del paese per quanto riguarda il desiderio di fare regali a basso prezzo, regali che in sé contengano la mellifua ipocrita pretesa di gratificare colui che lo riceve, ma allo stesso tempo un meccanismo orologeria che esprima disprezzo, esprima commiserazione, esprima dileggio. Quindi avete ricevuto qualcosa che è assimilabile ai fantastici regali infami dell'altra giornata dedicata a questo? Ve ne faccio ascoltare qualcuno per darvi l'idea. Intanto cominciate a chiamare, avrete il vostro libro infame, ricordo, con dedica mia, autografa, alla persona che voi desiderete in questa fantastica giornata pre-vigilia di Natale e gratificare con il vostro libro. Io ho comprato a mia zia per regalo di Natale una merendina gigante, una Kinder Brioche finta, dentro fatta di spugna. Beh, io ho regalato a un amico che non fuma un narghilè. Allora, un portalumini da muro, quindi era un tubo arrotolato su se stesso con dei piccoli supporti con i lumini. L'altra era una fontanella, quel cilindro da cui scaturisce fuori l'acqua in cima che fa girare quella pallina, no? Che continua a farla girare. Christmas, Christmas time is near. Io devo dire che oggi rispetto a ieri abbiamo fatto molto di più, abbiamo fatto una scelta ancora più accurata e ci siamo separati di libri che in realtà avevamo destinato a mantenere nella nostra bibliotechina, perché sono anche libri molto importanti, libri dotati di significato, libri, la maggior parte dei libri che io regalo questa mattina non sono libri comprati in una bancarella, sono libri che sono ancora nelle librerie, libri i cui ufficio stampa stanno faticosamente cercando di fare promozione in giro, libri che trovate in vendita, libri i cui autori stanno lì trepitanti a girare l'Italia, libreria dopo libreria, proloco dopo proloco, festival della musica e della canzone popolare dopo festival, per cercare di venderne qualche copia. Il nostro è un atto di profonda e disinteressata generosità. Laura, buongiorno. Salve Nicoletti. Cosa vuole Laura ancora da me? Ma io in realtà nulla, però insomma so che visto che ieri ho telefonato Lei ha sollecitato le nostre colleghe del centralino. Ecco, infatti, sì. Per avere in fretta insomma questo, ma io già ho provveduto a mandarle, lei ricordiamo ha un figlio che viene dall'Australia mi sembra in questi giorni, sì, giusto tornato ieri. Non so se ha già visto, ho pubblicato su Facebook la dedica al nostro giovane canguro con la speranza che si ricordi del suo paese, è già pubblicata la dedica, il libro esiste, è il perfetto. Fantastico rapporto Censis 2011, ma ha tanta fretta di riportarsi in Australia? Questo non lo so, spero che se lo porti via, visto che mi ha detto che è un volume di sì, di molto misura. Ponderoso, ecco. Sì. Dovrà rinunciare a qualche caciotta di casa sua per portarselo via. Qualche pezzo di grana, sì, sì, certo. Anche perché poi ovviamente il peso conta portando una valigia dall'Italia. Quindi questo volume, no, ci tenevo che arrivasse prima, proprio perché dovendo partire anche presto per rientrare... almeno di godersi questo bellissimo libro infame, perché se no rimane sul gruppo a me. No, stia quindi... tranquilla, guardi, abbiamo già provveduto alla spedizione, intanto lo faccia godere guardando il nostro profilo Facebook, dove c'è la foto proprio del frontespizio che ho anche volutamente anticato per dare un valore a questo rapporto, che in realtà è un rapporto recentissimo, è stato presentato un paio di settimane fa, quindi è ancora fresco di stampa. Auguri Laura. Alessandro, vediamo il primo aspirante. Buongiorno Nicoletti. E io in realtà non sono uno che ha ricevuto o che ha fatto un regalo infame, io penso che abbia fatto un regalo infame. Non sento nulla però, guardi. Pronto? Ecco, adesso sento. Ok, scusami. Dicevo, io non ho pensato di regalare a mia suocera, che so che va matta, una vetrinetta anni 50. Una vetrinetta di quelle con le colonnine, il vetrino anticato, eccetera, da ristrutturare, perché lei adora anche ristrutturarla. Quindi lei gliela vuole comprare da un rigattiere? Io sono andato a cercarla da un rigattiere, l'ho trovata, e lei aveva una che gli era stata poi fregata in malo modo da un'altra persona. Comunque io non riesco a trovare... Senti, parli vicino al telefono, sennò non si prende lì. Così va bene? Stia fermo, non si muova. Tolga gli auricolari, gli attrezzi, le interfacce. Metta il telefono vicino alla bocca e parli, prego. Ok, e quindi niente, le ho regalato questa vetrinetta che le è stata consegnata ieri e lei mi ha telefonato chiedendomi se era possibile portarla indietro perché aveva cambiato idea e non la voleva più. E quindi io sono in questo momento, tra l'altro, davanti al rigattiere per chiedergli se me la prende indietro. Con la vetrinetta sotto braccio? No, la vetrinetta è lunga 2 metri ed è alta 1,50 m, quindi non la posso mettere sotto braccio, però... E quindi cosa vorrebbe dare a sua suocera? Un libro infame in cambio. Un libro infame per sua suocera. Guardi, io il mio suggerimento sarebbe di dare a sua suocera, regalarle anche un Black & Decker con seghetto continuo e mola allegata per poter fare il lavoro di bricolage, ma se questo non è possibile cercheremo di aiutarla proprio, guardi... Sarei tentato di mandarla a casa senza nulla, che sarebbe la cosa migliore. Però visto che questa mattina ci avviciniamo a Natale, dobbiamo essere buoni, faremo uno sforzo. Complimenti! Hai vinto un libro infame. Allora, ad Alessandro... Uno, dici? Uno solo, va bene. Ad Alessandro, per regalare a sua suocera al posto della vetrinetta orribile che non prenderà mai nessun rigattiere indietro... Ho giusto appunto in mano un corposissimo cofanetto, che è un cofanetto che contiene 3 libri, che potrei far felice 3 persone o darlo soltanto a una persona. Ma il mio dubbio è, se lo do soltanto a una persona, chi si becca il contenitore 3 volumi con 2 volumi vuoto? Quindi lo regaliamo tutto esattamente ad Alessandro. Alessandro, proprio perché voglio darle qualcosa di ponderoso per sua suocera, ho un meraviglioso cofanetto di 3 volumi, peso... 2,5 kg circa, edito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità Italiane, profili di italiane famose. Guardi, peserà 2,5 kg, incartato è più o meno il volume di 2 mattoni, messo uno sopra l'altro, quindi secondo me per sua suocera è quanto c'è di meglio. Le faccio i migliori auguri e mi dica cosa vuole che ci metta come dedica a questo punto. Niente, a Gabriella, per utilizzare questo cofanetto come supporto per una vetrinetta che non ha, che ne so. Vabbè, guardi che è stato edito al tempo della ministra Carfagna, farà piangere un occhione di cerbiatto, comunque va bene, io glielo metto. A Gabriella, si chiama sua suocera? Sì, si chiama Gabriella. A Gabriella, perché lo metta sotto il tavolino. Auguri. Scarto le 2 bottiglie e scopro che sono 2 splendide bottiglie di Chinotto, di una marca che io stimo molto. Nel pacco voluminoso mi aspettavo un mattone, invece apro il pacco e mi trovo tante piccole bottiglie di Chinotto che tutte insieme fanno ben oltre 30 litri di Chinotto. Praticamente io il regalo che subisco ogni anno e che poi a mia volta riciclo è il libro che ogni anno sporna Henry De Luca. È un contenitore di plastica color verde pisello della misura di un pacchetto di sigarette con 2 gancetti che si aggancia alla tazza della colazione al mattino e dove ci possono stare dentro 2 o 3 biscotti. Devo dire che nella giornata di ieri abbiamo toccato vette talmente sublimi che sarà difficile superarle, ma io spero ce la faremo questa mattina. Mi piacerebbe vedere uno spaccato coerente, concreto, dell'orripilanza delle strenne degli italiani. Cosa si fanno venire in mente per ossequiare questo trito, squallido e consunto rituale, dover comunque regalare qualcosa, anche quando non si ha voglia di regalare, anche quando non si ha affetto, anche quando si ha disprezzo, anche quando la persona a cui noi facciamo un regalo in realtà è alla vertice delle nostre più terribili supposizioni. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Guardi, i miei regali più orripilanti, io ho avuto tutta una serie di pigiami da parte di mia suocera, fin qua niente di male. Ma io vedo che le suocere è una costante nel regalo orripilante natalizio. Ma non riuscite mai a levarvele di dosso le suocere? La mia oltretutto è molto giovane, ma mi auguro tanta salute. Ma io ebbi la fortuna di sposare un'orfanella, però non a tutti succede questa fortuna, devo dire. Insomma, al di là di questi pigiami, insomma, non è tanto il pigiama, perché poi insomma io non lo metto. Perché il pigiama chi lo mette più? Lo metteremo quando saremo umarell, perché mi sembra un accessorio talmente desueto il pigiama. Cosa serve il pigiama? Infatti, le case sono iper riscaldate. Ma la motivazione era fantastica. Se gli succede qualcosa, se deve andare in ospedale. Ah, certo, naturalmente. Almeno c'è il pigiama, sì. Ecco, addirittura una veste da camera dicendo, insomma, quando poi scenderà dal letto ne avrà bisogno per passeggiare nel corridoio. Insomma, per cui io ho una serie di... Quindi a tutti questi pigiami da corsia d'ospedale? Sì, le magliine che quando li togli fanno le scintille. Ah, quelli di magliine antichi anni 70, nemmeno quelli un pochino più decenti. Poi alcuni, insomma, quelli azzurri stile militare, quelli bianchi a righe, insomma, tutta la serie. Ma lei l'ha mai indossati per un gioco erotico con sua moglie? Non so, così. No, facciamolo retro oggi, no? Nemmeno questo. No, guardi, preferisco altri giochi erotici e comunque sia. Dai, in cui sua suocera non c'entra nulla. No, mia moglie insomma mi citerebbe per manifesto cattivo gusto. Quindi lei c'ha, diciamo, una cassettiera occupata da questi pigiami. Bravo. Non ha nemmeno il coraggio di regalarli a un poveretto che magari ne farebbe buon uso. Ma pensano poi di darli alla Caritas, anche perché nel frattempo sono ingrassato. E poi alcuni addirittura, cioè io guardavo solo attraverso la finestrella in cielo verso la quale si guardava il colore, queste cose qua. Non li ho ancora nemmeno aperti, non ho nemmeno tolto il coperchio, c'è ancora la carta velina appoggiata sopra o cosa e via, insomma. Quindi è terrificante, perché si vede che li va proprio a comprare da quei vecchi negozietti muffiti dove ormai non ci va più nessuno, che sono tenuti aperti soltanto per dare una ragione di esistenza al vecchietto che sta dietro il banco. Bravo, va bene, bravo. Allora, Mauro, devo dire che lei mi ha colpito profondamente. Complimenti, hai vinto un libro infame. Caro Mauro, come si chiama sua suocera? Vittoria. Allora, facciamo la dedica. Il libro che le regalo è Lorenzo Pinna, Autoritratto dell'immondizia, che mi sembra adatto. C'è anche la prefazione di Piero Angela. A Vittoria, perché la prossima volta i pigiami li usi lei con l'idraulico che le viene a aggiustare le tubature. Va bene così come domanda, come va dedica? Va benissimo. Va esattamente, la scrivo così. Perché la prossima volta i pigiami li usi lei da fare indossare l'idraulico che le viene a aggiustare le tubature. Con questo lei chiuderà il rapporto. No, questo non lo metta, mia suocera è vedova, poverina. No, beh, no, vedova, se uno deve, guardi, se lei deve creare una frattura bisogna farla radicale. Io le scrivo questa dedica, poi ne faccia ciò che vuole. Grazie, okay. Arrivederci, a presto. Io e mia moglie abbiamo pensato di fare un bellissimo regalo a mio figlio Antonio. Allora, gli abbiamo regalato un spazzolino per pulire il WC. Senta, io all'indomani della caduta del muro di Berlino, in una cena con dei numerosi ospiti, avevo preparato per ognuno delle scatolette con all'interno dei cocci che avevo recuperato da un lavoro edile che avevo fatto, con delle bellissime descrizioni in inglese e in tedesco che descrivevano appunto che erano pezzi originali del muro di Berlino, e io le ho regalato a loro tutti quanti quella sera e credo che ce l'abbiano ancora. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Vediamo un po'. Beh, divertente, però vedo che in effetti avete tutti un bel bagaglio di cose schifose da regalare e che avete ricevuto il regalo. O avete degli odi sopiti, mai espressi, che si realizzano nello scartamento sotto l'albero di Natale. Andiamo avanti, Salvatore. Con chi ce l'ha e a chi vuole fare un regalo vendetta? Però io vorrei farle l'elogio della trilogia sulla pari opportunità. Quello ormai è già stata. Sicuramente è un libro che dura una vita nel leggerlo. No, è un mattone insopprimibile. Pensi che è ancora sigillato, è ancora vergine. Avrà il privilegio di deflorare questo libro la signora a cui lo riceverà. Ah, beata la Garfagna, sarà felice. Ebbene, allora andiamo avanti, adesso sistemo anche lei. Senta, io in questo periodo, più o meno questo periodo, ero dalle parti di Siena, nella provincia di Siena, se non che ci sono dei vari punti di degustazione del gallo, il putto nero, quei canti lì famosi. Ho detto, mi faccio un regalo. No, avevo detto al professor Chiappini, chiudi il microfono, devo starnutire, non me l'ha chiuso e avete tutti sentito. L'abbiamo apprezzato. Il mio starnuto in diretta, ma che devo farci? Sì. Anch'io ho dei bronchi. Andiamo avanti. Se non che ero in questa cosa, ho detto, quasi quasi mi faccio un bel regalo, ho detto mi prendo 6 bottiglie di vino pregiato che aprirò magari nel periodo prima di Natale, no? Il Natale, così. Se non che mi compro questo vino, arrivo a casa e ho detto, una bottiglia me la apro, la assaggio, vediamo com'è. Apro la prima bottiglia, fa schifo. Acido, sapeva da tappo, le aveva tutte. Riapro la seconda bottiglia, mi è venuta un po'. E allora? Apro la terza bottiglia, idem. Mi sono fermato, l'ho lasciato lì. Se non che poi abbiamo fatto una cenetta a casa e era capitato uno che si piccava ad essere un sommelier. Un grande esperto in vini. Sì, che parlava di Barolo, che parlava. E gli ha rifilato la ciofega. Di Rossecone. Io sono andato in cantina, ho preso uno di quelli contenitori con 3 bottiglie, che contiene 3 bottiglie, e ci ho cacciato dentro le bottiglie del Chianti Schifoso e le ho regalate. Finita la festa. Un giorno lo incontro e gli faccio, ma com'era il vino? Gli ho detto, che ne ho preso uno anch'io, gli ho detto che devo ancora aprirlo. Mi fa, guarda, aveva qualche difettino, ma era di un buono, andava giù come il rosolio, era un signore che io odiavo a morte. Da quel giorno ha cominciato a guardarmi con simpatia. Ma guardi, io non vorrei disilluderla, sicuramente quel vino già ha ripreso il giro dei ricicli, non avrà mai aperte quelle bottiglie, avrà regalate a qualcun altro e ci sarà ancora quella bottiglia intonsa che girerà anche questo Natale, infiocchettata di nuovo con i segni dello scotch e dei fiocchetti degli anni precedenti, che farà felice o illuderà qualcun altro. Vabbè, mi ha convinto, Salvatore. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, a Salvatore, spacciatore di vino adulterato, regalo il fantastico libro infame, un libro che è costato sudore, fatica e schiena dritta, di Giulio Borelli, Le mani sul TG1, da Vespa Minzolini, L'ammiraglia Rai in guerra, Coniglio Editore, che il titolo, l'editore, diciamo, chiude il cerchio rispetto all'autore. Allora, a chi lo devo dedicare questo libro? A Giulio. A Giulio, a lei stesso? No, a Giulio. No, io sono Salvatore. A Giulio chi è, l'amico? È l'amico. A Giulio, sommo conoscitore di vini, va bene? Va bene. Tanto così capisce che è tutta una ciofega. Sì, sì, va sì. Bene, grazie, andiamo avanti. Adamo, buongiorno Adamo. Buongiorno Nicoletti, grazie per avermi chiamato. Buongiorno, io ho ricevuto un regalo che per me è orrendo. forse per mia moglie è un po' meglio, perché ho ricevuto qualche anno fa dalla mia zia un deodorante profumo Playboy con annesso perizoma nero. C'è un profumo con perizoma? Con perizoma. Da usare associati? Penso di sì, perché il profumo era Playboy, il nome, quindi io non vorrei fare pubblicità, però con annesso perizoma lì. Perizoma maschile o femminile, scusi? Maschile, maschile. E lei ha indossato il perizoma e si è, come Fantozzi, profumato l'intimità? Io veramente non lo volevo usare, poi mia moglie mi ha costretto... Ah, l'ha costretta in un gioco erotico, come appunto, chiaramente, di mettere il perizoma e profumarsi come Fantozzi. Fantozziano, sì, veramente. E dopo le ustioni com'è andata? Diciamo benino, anche perché io adesso che le sto dicendo questa cosa sono attualmente tutto rosso in viso, perché ancora mi vergogno di questa cosa. Va bene, lei cosa vorrebbe fare? Un regalo a chi? Io vorrei fare un'infamata a questo punto a mia moglie, che mi ha costretto a indossare questo perizoma. Benissimo, ho qualcosa per lei. Complimenti, hai vinto un libro infame. Come si chiama sua moglie, Adamo? Francesca. Allora, io direi a Francesca, perché la prossima volta il perizoma con l'acido solforico se lo metta lei, regalo il favoloso libro infame Il Pinguino, rituali amorosi improduttivi dell'età contemporanea, Armando Curcio editore. Mi sembra un bellissimo libro, no? Grazie mille. Allora, a Francesca da Adamo, va bene Francesca, no? Grazie, grazie. Benissimo, grazie Adamo, grazie a tutti, preparatevi, ho ancora almeno una trentina di libri infami, che più infami ve li immaginate nemmeno, basta che mi descriviate quello che avete di riprovevole fatto sotto l'albero di Natale. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 00 24. Stiamo continuando a distribuire in questa previgilia natalizia i libri infami. Sono i libri che avevamo nel nostro armadietto, i libri che ci hanno mandato gli editori, i libri che ci hanno regalato gli autori, i libri che avremmo dovuto recensire. Molti ne abbiamo recensito, di molti ne abbiamo parlato. Sono lì. Cosa farne se non regalarli e far felice qualcuno? Li regalerò, come già sto facendo, uniti con una dedica personalizzata alla persona che cui vorrete far del male o far del bene o mandare un messaggio segreto. In cambio cosa voglio? Voglio che mi raccontiate i rituali infami del regalo obbligato sotto l'albero di Natale. Abbiamo già fatto ieri, abbiamo fatto una trasmissione come questa, ma visto lo straordinario successo e la prepotente richiesta degli ascoltatori, abbiamo continuato anche oggi. Non è mai accaduto, ma evidentemente questo Natale ha bisogno di esplicitazioni e coming out di regali infami. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io anni fa, prima fidanzata della mia vita, impiego due mesi nel tempo libero a cercare una collana giusta, con le pietre giuste che piaceva a lei, eccetera, eccetera, eccetera. Due settimane da Natale gliela regalo, faccio per regalarla, anzi, lei mi molla, e io la settimana dopo l'ho regalata un'altra. Beh, mi sembra il minimo, qual è il problema? L'infamata l'ho fatta io. Il problema sarebbe stato... No, l'infamata l'ha fatta lei a lasciarlo, se vogliamo proprio dirlo. Avrà anche fatto bene, ma dal suo punto di vista è lei che ha rosicato. Pensi che disgrazia avesse fatto un ciondolo d'oro massiccio con inciso i vostri nomi uniti per sempre, più di ieri, meno di domani? Sarebbe stato... Un rischio che ho corso, perché un'altra delle opzioni era un anello con i nomi, quindi... Mai farlo prima che ci sia il prete a benedire l'unione, porta una sfiga terrificante, oppure nel suo caso dovrebbe essere anche una fortuna. Quindi lei vorrebbe un regalo da chi, per regalare a chi un libro infame? A me stesso, visto che l'infame l'ho fatto io. Ma no, guardi, è una lievissima infamata, potrei suggerirgliene di peggiori per sanare le ferite di un amore che ci ha abbandonato, ma visto che lei è un buono sarà premiato. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, al nostro povero ascoltatore Filippo, di una tenerezza disarmante, che è convinto di aver fatto un'infamata semplicemente perché la collana che aveva acquistato dando fondo a tutte le sue risorse per una ragazza che nel frattempo già lo tradiva probabilmente con il suo migliore amico e l'ha lasciato, e quindi ha regalato mestamente questa collanina a una povera ragazza che ha incontrato per strada per sanare, almeno dal punto di vista fisico, il terribile dolore di questa separazione. Regalo il fantastico libro, perché gli sia d'aiuto e di stimolo nelle sue future scelte sentimentali, Testa e Croce di Giorgio Ruffolo, una breve storia della moneta. Non è mai detto che possa la prossima volta scegliere affidandosi alla sorte, non nel suo istinto, come vede la fa sbagliare. Grazie Filippo. Grazie, auguri. Andiamo avanti con Alessandra. Buongiorno. Eccomi qua. Allora, sempre rimanendo in tema di fidanzati, il mio primo Natale da fidanzata con quello che ora è il mio marito, io tutta carina, gli scrivo le letterine, penso cosa regalargli, e mi trovo un paccone enorme che poi si rivela essere il Mereghetti, quel libro di... E lei cosa pensava che fosse invece il paccone enorme? Ma no, un bel libro, un libro d'amore, sa come siamo noi ragazze. Aspetta. Voi ragazze nel senso, quanti anni ha signora? No, all'epoca ne avevo 28, adesso ne ho un po' di più. Non era proprio una ragazzina 28 anni. No, però pensavo fosse l'uomo giusto. Beh, è un fantastico libro che insegna a leggere il cinema nelle sue più profonde implicazioni. Certo, il Sansonna sarebbe stato meglio, ma anche il Mereghetti non è un cattivo libro. No, no, assolutamente. È che non me lo sarei mai aspettato e non l'ho mai aperto, non so se per ripica o per, comunque ecco. E adesso cosa vorrebbe da me? Cosa vorrebbe da me? Mi piacerebbe potergli regalare un libro, altrettanto un libro sull'amore? Sì, perché no? Dopo tanti anni ancora non è riuscita a farglielo capire che lei il cinema non interessa, che la sera non vorrebbe andare al cinema. Va bene, faremo il possibile. Complimenti, hai vinto un libro infame. Alla nostra tenera Alessandra, che dopo anni di matrimonio ancora non è riuscita a far capire a suo marito quali sono le sue più profonde predilezioni, regala un libro che è veramente importante, anche perché l'autrice è stata intervistata soltanto pochi giorni fa su un importante settimanale, quindi è un libro fresco di stampa, L'isola che c'è di Susanna Tamaro, Il nostro tempo, l'Italia, i nostri figli. Guardi, regali questo a suo marito, quindi se già prima era restio a andare incontro ai suoi desideri, leggendo questo libro sicuramente sarà cementificato per sempre in un momento di isolamento. Come si chiama suo marito, signora? Roberto. Farò una dedica molto cattiva e lei la troverà quanto prima, e così almeno avrà la sua soddisfazione. È un librettino molto esile, è un librettino di poche pagine, non è la Tamaro favolosa le sue lucubrazioni con la nonna, ma questa è una Tamaro comunque sempre inverdita, con calzini a strisce, con un bel maglioncino verde vomito, quindi vedrà che a suo marito farà piacere. Fausto, eccomi. Ecco, andiamo avanti. Buongiorno. Allora, io, siccome mia moglie mi tortura sempre con delle cose domestiche, tipo mi fa asciugare i rubinetti dopo che ho fatto la doccia, mi fa asciugare lo spazzolino dopo che mi sono lavati i denti, non mi permette quale di spazzolino? Usare. Quale spazzolino? Il mio spazzolino. Sì. Deve essere asciugato, sennò quando lo ripongo bagno il suo, e quando lei si va a lavare i denti trova lo spazzolino. Ma non bagnato. È ancora arrivato a casa vostra quel meraviglioso ritrovato della scienza che il cappuccetto di plastica copre spazzolino? Sì, ma c'è naturalmente, quello lì c'è già. È il manico che devo asciugare. Il manico dello spazzolino. Ah, andiamo lo devo asciugare, sennò bagno il manico del suo spazzolino che si lava i denti dopo di me. Poi cos'altro la impone di fare sua moglie? No, perché è molto non mi lascia usare lo stesso coltello per tagliare due tipi diversi di formaggio. Sì. Perché sennò un formaggio sporca l'altro. Naturalmente, il taleggio non potrà mai tagliare la stessa fetta di cacio. Poi mi devo mangiare tutto il formaggio perché ormai l'ho... Ma andiamo avanti nelle perversioni di sua moglie, sono molto interessanti. Si arrabbia lei perché le racconto. No, ormai ha già dato, il peggio già l'ha detto. Mia moglie ha un paio di ciabatte per camminare in casa e un paio di ciabatte diverse per stare sul divano. Quelle che stanno sul divano non possono toccare il pavimento e non possono neanche essere toccate, perché a volte senza volermi ci siedo sopra e vengo sempre ripreso perché mi sono seduto sulle sue ciabattine per stare sul divano. E insomma, andando avanti, adesso per la sua vista non ho fatto un elenco. No, perché sa dove voglio arrivare? Con una donna così legata alle fobie della contaminazione, immagino che non soltanto dormiate su letti separati, ma anche su appartamenti diversi dal, dal timore che magari, non so, il suo pigiama possa sfiorare la sua camicia la notte, che il suo cuscino possa sovrapporsi al suo cuscino, che la stessa coperta... Cuscino assolutamente, i cuscini non si devono toccare. Sì. È impossibile. Comunque, avete figli? No, scusi, non voglio entrare... Avete figli? No, non abbiamo. Beh, chiaro, logica, questo potevo non immaginare. Non abbiamo figli, il mio cuscino non può toccare il suo, e, però dormiamo insieme soltanto 3 sere a settimana, perché io per lavoro sono via tutta la settimana, e devo dire che non so perché, però l'adoro per queste sue deviazioni. Ma devo dire che ha un suo fascino, perché una donna così inarrivabile, una belle danse à merci che non si fa nemmeno sfiorare le ciabatte, devo dire che nei momenti rarissimi dell'intima d'azione avrà il sapore e il sentore di una conquista inarrivabile, quindi voglio farla felice. Complimenti, hai vinto un libro infame. Io le darò a questo punto il libro infame che già stringo fra le manine, se lei però in cambio mi dice cosa ha regalato la moglie d'infame. Allora io per mia moglie, siccome noi fin dall'inizio quando ci siamo conosciuti abbiamo deciso di non farci mai regali. Sì. Per non arrivare al punto di farci dei regali. No, anche perché poi bisogna toccare la carta, il nastro, bisognerebbe pulirli prima con la mucchina, è chiaro. Non ci siamo mai fatti regali, quest'anno per la prima volta gli faccio un regalo e l'ho confezionato io, ho speso 5 euro, ho comprato dai cinesi una sveglia di quelle con le campanelle, il battacchio e la gallina che becca il grano disegnata. Fantastico regalo, un bellissimo regalo. 5 euro no, poi ho preso un manico di scopa, l'ho tagliato a pezzetti, l'ho incartato con la carta da pacchi per simulare i candelotti di dinamite, gli ho infilato un filo nero sopra che va a finire dietro la sveglia l'ho attaccata sui candelotti e gli regalo la bomba. E con questo però che messaggio vorrebbe dare a sua moglie regalandole una... Ah no, infatti dentro c'è il messaggio fatto con i ritagli di giornale da un'anonima banda di protettore dei mariti che la intima a non... Ma ormai non credo che potrà mai più uscire dalla sua gabbia di fobie di sua moglie, la deve tenere così com'è, anzi apprezzando il lato positivo. No, sicuramente la tengo così com'è, ma però lei sgrida me e io continuo a comportarmi male e quindi anch'io manderò questo messaggio e lei continuerà. Lei provi magari questi giorni di festa, visto che è più libero, non so, a camminare con le scarpe sul divano, a fare la pipì dentro le fioriere. No, non ho coraggio, no. E ci provi, faccia questo gesto liberatorio. Comunque, ecco il libro infame. Un libro adatto a sua moglie è il fantastico della IBL Libri, Indice delle Liberalizzazioni 2010. Questo è un libro che, secondo me, a sua moglie sarà utilissimo. Lo legga bene e vedrà che risolverà i suoi problemi. Come si chiama sua moglie, solo per la dedica? Monica. Allora, a Monica... Così lo può aggiungere appunto al pacco bomba che ha preparato per lei. E intanto io... Sì, prego, prego, dica. Se posso, mia moglie legge tantissimo. Sì, questo legge talmente tanto che ha un libro su cui segna i libri che ha letto, per non leggerli due volte. Ah beh, certo, sì. Beh, certo, che sì. E sono questo un bel regalo infame perché lei legge soltanto romanzi, quindi questo qui sarà un po'... Questo poi sicuramente non l'ha letto di sicuro perché poche persone l'hanno letto, se non gli addetti ai lavori, quindi farà un regalo senz'altro inutile, senz'altro doloroso da sopportare per lei, anche perché in questo momento tengo la copertina tra le dita, anzi ho appena tossito e l'esito del mio starnuto è andato fra le pagine di questo libro, quindi sua moglie avrà un terrore di contaminazione estremo. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. Andiamo in questa ultima parte cercando di regalare ancora di più libri infami, visto che ancora ne ho parecchi. Vediamo se riuscite a sintetizzare subito qual è il regalo infame che avete subito o che vi apprestate a fare o che in passato qualcuno vi ha fatto per meritarvi il libro infame. Ricordo che nel frattempo nei nostri profili Facebook già sono come prova tangibile che non stiamo scherzando, state fotografate e pubblicate le dediche dei primi libri infami attribuiti. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Mia sorella anni fa fece del limoncello casalingo fatto in casa, no? Me ne regalò una bottiglia, ma insomma non era per niente buono. Era una schifezza. Una schifezza. Io cosa feci? Alla prima occasione ho travasato in una bottiglia, diciamo, di marca, sono stato lì, ho tirato via da un'altra bottiglia il famoso bollo per i superalcolici, da un'altra bottiglia, con la colla gliel'ho incollato su e gliel'ho regalato alla prima occasione. Lei ha avuto il coraggio di dirmi, ma sai che questi limoncelli di marca non sono per nulla buoni? Io nell'immediato non sono stato capace di dirgli, guarda che è il tuo. Però a distanza di un anno l'argomento venne fuori. E come si giustificò la sorella? E glielo dissi, ma lei ancora ad oggi non è incredula. Era il suo. Evidentemente sua sorella. Ma ha apostrofato in malo modo, diciamo. Sono belli questi rapporti spontanei e non mediati in famiglia, soprattutto fra consanguinei. Evidentemente sua sorella faceva le sue orrende misture, ma non aveva mai il coraggio e la prudenza di doverle assaggiare. Quindi farò felice lei e sua sorella. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, a Enrico, alla sua sadica sorella avvelenatrice, regalo il libro infame, bellissimo, Garzanti, una bellissima copertina celeste col disegno di un pomodoro, La purpurea meraviglia, storia del pomodoro in Italia. Già ho scritto la dedica mentre lei parlava, basta limoncelli, fammi un Bloody Mary. Enrico, ok, è contento? Grazie, spero grazie bene, mille, anche perché questo è. Nicoletti. Augusto, okay. Augusto, velocemente. Buongiorno Rigoletti, sono molto contento di partecipare a questa trasmissione, perché comunque sono un fan, un vostro fan, mi piace molto sentire le vostre trasmissioni. Comunque, mi toglie la curiosità, Enrico, ma qual è il piacere, scusi Augusto, il piacere di ricevere un libraccio con una cosa scritta sopra? Perché state telefonando a decine, nemmeno se avessi fatto una trasmissione, ne so, Il segreto per uscire dalla crisi, nemmeno questo, sarebbe valso tante telefonate. Cioè i libri oggi li regalano, li vendono, per un euro gliene danno una damigiana, una cariolata intera, perché tutti telefonano per avere un libro? Inutile poi, ma cosa ci fate con il rapporto Censis? Il piacere è perché per poter partecipare alla vostra trasmissione che è meravigliosa. Ah, per giocare. Andiamo al punto. Allora Augusto, che ha comprato? Andando al punto, praticamente io ho comprato in una bancarella un vecchio ferro da stiro che nessuno pensava, un ferro da stiro in ottone. Beh, bellissimo. Cocciate dei bassorilievi come ci sono disegnate delle rose. Vorrei averlo io, scusi, è un libro fantastico. L'ho bello pulito, l'ho sistemato, ci ho messo tanti fiorellini, ci ho messo anche qualche cioccolatina e cuoricini. Beh, l'ha trasformato in oggetto kitsch, è il regalo dell'Umarell, però andiamo avanti, l'ha regalato a sua moglie. Lei veramente non potevamo pensare mai che ci avesse regalato un ferro da stiro. Però quando ha visto quella cosa brillante, perché bello lucidato, col sito, l'ha fatto bene. Cosa ha fatto? L'ha accettato bene, perché praticamente è stato come fare un viaggio indietro nel tempo, ricordandoci dei tempi delle nostre nonne. Ma certo. Che stiravano con il ferro da stiro. E sua moglie le ha regalato una vecchia ciabatta in cambio, tutta bella e ripulita, no? Mi ha regalato una bella cravatta. Il regalo che tutti vorremmo per Natale. Ah, potessi avere una cravatta. E poi scusi, anche come sorpresa ci ho messo sotto l'albero di Natale che lei aveva preparato con tanta pazienza, ci ho messo delle bambole che provengono da tutto il mondo, siccome io ho fatto il marittimo. Aveva preso queste bamboline. Come fanno i marinai con le bambole? Adesso abbiamo capito. E nessuno pensava. Vabbè, Augusto, tagli, fermi qua, andiamo avanti. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, ad Augusto le regalo un bellissimo libretto che mi sembra proprio adatto per lei. Giorgio Conte, Il trattore arancione. Arancio, anzi, che è un romanzo, un bel romanzetto. Già c'è la dedica dell'autore che mi ha fatto. Grazie. Ma sovrascrivo con la dedica che io faccio a lei. Grazie, Augusto. Atena. Buongiorno. Forza Atena. Allora, abbiamo tappeto peloso e lampada brutta. Come abbiamo? Abbiamo ricevuti? Abbiamo ricevuto da una zia che si è trascinata in ascensore questi due cadaveri che una volta spacchettati si sono rivelati. Un tappeto color d'eiezione di cammello con tracce di rosso e nero, tutto peloso e ruvido. È una meravigliosa lampada stile Svezia anni 70, color panna sporca. Che schifo, e perché l'ha portato questa immondizia? Perché ce l'aveva per casa e non sapeva che fare. Ma che la scelta era tutta bella impacchettata con la marca del negozio. Sì, però non ha, guardi, questi questi delitti all'estetica condivisibile vanno puniti in qualche maniera, non possono più passare impunite queste cose. Non si può rimanere indifferenti di fronte a una persona che ti porta un tappeto peloso schifoso e una lampada schifosa. Perché lo fa? Guardi, c'è un sottile senso di cattiveria, l'ha fatta perché vi odia, non l'ha fatta per farvi un regalo, secondo me. E quindi in cambio le darà qualcosa che merita. Complimenti, hai vinto un libro infame. Guardi, le regalerà un libro che in realtà è un bel libro, solo che ormai è un po' andato fuori moda, di Carlo Cornaglia, con Elio Laganà, Berlusconeide, poema cavalleresco, illustrazione di Vauro, prefazione di Filippo Ceccarelli, che è un grandissimo amico. Quindi è un bel libro questo, non lo merita, però siccome non ne capirà il senso profondo, non saprà che farci, equivarrà al tappeto peloso per sua nonna, per sua suocera, chi è, sarà zia e via dicendo. Avanti, Atena, via, fuori Atena. Grazie. dentro Fabio. Pronto? Fabio. Salve, buongiorno. Volevo raccontarle che sotto Natale eravamo soliti fare le cene di Natale fra amici ed ognuno portava un regalo inutile avuto probabilmente da altri amici. Quell'anno, non avendo nessun regalo, mi sono tagliato i capelli e la barba, li ho messi in una bottiglia e li ho portati come dono da condividere con gli altri. La cosa divertente è che ogni anno questa bottiglia ritornava alle feste successive, cioè tutti la riciclavano. E quindi adesso non so più dove sono i miei capelli, sono in casa di qualche amico. Io solo una domanda mi faccio. Dica. Chi è il coraggioso che si è tenuto per tutto l'anno a casa una schifosa bottiglia con i suoi peli dentro? Non lo so. I miei amici mi volevano bene all'epoca. Vabbè, ma è un feticismo che va oltre ogni regola e quindi deve essere punito. Complimenti, hai vinto un libro infame. Non se la prenda Fabio, ma stiamo raschiando il fondo del barile, i libri infami rimangono quelli che nemmeno abbiamo mai aperto. Si deve beccare Da mani pulite a mani libere di Mario Domenico, Il colpo allo Stato, La legge uguale per tutti, salvo alcuni. È sempre meglio dello schifezza dei suoi peli e della sua barba. La Arrivederci, ringrazio, Fabio. Buone feste, salve. Piero, avanti, sì, buone feste con questa buongiorno. Promessa meravigliosa. Piero, buongiorno. Buongiorno. Niente, io il regalo infame l'ho fatto ieri sera a mia madre, con un buon fine però. Gli ho fatto il primo regalo una pentola orrendissima con il coperchio che praticamente alla fine si cola l'acqua contemporaneamente con la pasta dentro. Vabbè, è un utile accessorio. È utile, ma era bruttissima, infatti la faccia della mamma è stata non era proprio di buon gusto. C'è la pentola con lo scolapasta incorporato. Tutto insieme. E poi però è arrivato qui il regalo bello e è andato tutto bene, una bella confezione di olio pregiato con 6 bottiglie di tutti gli oli diversi. Sì, che poi finisce che uno li usa per friggere, quindi uno vale l'altro. No, no, non era olio da friggere, glielo garantisco. Non si trovano. Non si trovano più, quelli che facevano una volta. Va bene. Quelli che si facevano una volta. Controlli la data di scadenza. Di solito queste bottiglie di olio girano. Sì, sì. No, assolutamente. E poi ho fatto i regali ai cugini. Sono stato lì, sono proprio stato infame. Perché loro fanno sempre dei regali assurdi. E io sono di buon cuore, faccio sempre dei regali utili e che hanno un certo prezzo. E quest'anno li ho consegnati con l'etichetta col prezzo sopra per farli vedere. Va la bene. Differenza che, di cuore che ho io e non quello che hanno loro. Allora, il regalo infame che faccio agli ascoltatori è non regalare niente a Piero, così almeno farà un Natale triste. Ha lambito il libro infame ma non l'ha avuto e mi sembra perfetto per chiudere questa trasmissione. Tanti auguri al professor Chiappi. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.